1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui alle 7:18 minuti, come dico io, razza di debosciati. Che fate? Forza, cari italiani. È ora di produrre, è ora di attivarvi, soprattutto che c'è lo sciopero dei mezzi nelle città, quindi buttatevi nel traffico, state lì quelle 3-4 ore prima di fare i 3-4 chilometri che vi separano al lavoro e accendete Radio 24 e ascoltate in silenzio. E allora oggi parleremo alle 8:15, sarà con noi il direttore del TG4 Mario Giordano, che ha scritto un libro, Non vale una lira, un libro edito da Mondadori contro l'Europa e contro l'euro. Con lui avremo David Sassoli, che è dell'Europarlamento, del Partito Democratico. Avremo il professor Alberto Saravalle a parlare, insomma, di questo euroscetticismo che è sempre più dilagante, soprattutto in vista delle elezioni europee e proprio all'indomani della visita di Renzi da Angela Merkel, oltre ad aver visto anche Hollande, il presidente francese. Allora, di questo parleremo più avanti, però ora andiamo a tuffarci nella lettura dei quotidiani. In questo mercoledì 19 marzo, intanto i titoli, il Sole 24 Ore apre così, spending review, subito risparmi per 5 miliardi, è quello che ha detto il commissario Cottarelli. Mentre le aperture oggi sono diversificate, anche la Stampa apre così, tagli se arriva a 5 miliardi, il Messaggero, statali, mobilità e stop ai premi, mentre il Corriere della Sera apre sulla situazione internazionale con il titolo Putin si annette la Crimea. Repubblica invece, Berlusconi vietata la candidatura. Per il giornale non può neanche votare, è sempre Silvio Berlusconi. Anche il Fatto Quotidiano, Berlusconi interdetto fino al 2016, non può nemmeno votare. Mentre per l'Unità, pensioni e statali, pericolo tagli. Libero invece, che insiste da giorni in una campagna sull'affitto di un appartamento di Matteo Renzi quando stava sindaco a Firenze e che era pagato questo affitto dal suo amico imprenditore Carrai. Ecco l'affitto di Renzi, il contratto misterioso, il documento prova che Carrai, imprenditore che riceve appalti e incarichi dal comune di Firenze, ha preso l'attico in locazione e l'ha messo a disposizione dell'amico sindaco. Era opportuno? Questo è il titolo di prima pagina di Libero, ma vedremo altre notizie. Io però voglio subito tuffarmi sulla lettura delle notizie, soprattutto quelle che, come dico io, suscitano il vostro buon umore e, se siete in macchina, vi fanno tenere le mani ben strette, abbarbicate sul volante. Qualche pugnettino ogni tanto è consentito, ma una mano alla volta, perché una la tenete sempre sul volante, come sempre. Se avete caffè bollenti in mano, appoggiateli un attimo e udite, udite, secondo il Fatto Quotidiano, a pagina 4, l'articolo è di Enrico Fierro e Lucio Musolino, è arrivato l'assessore che ricorda proprio Cettola qualunque, o meglio, l'ex assessore di Catanzaro, è superato dalla realtà al cetto di Chiupilu per tutti, il vero la qualunque e la prostituta Zuniga. È una storiaccia dell'ex assessore di Catanzaro, ex perché si è dimesso, Massimo Lo Monaco, e gli sms compulsivi, scrive il Fatto, che mandava a prostitute, che aiutava tra l'altro in alcuni casi, come nel caso di questa prostituta Zuniga, aiutata ad ottenere la carta d'identità. Chiupilu per tutti, no, chiupilu per l'assessore Massimo Lo Monaco, assessore al personale fino a poche ore fa al comune di Catanzaro, ammaliato dalle creole come Zuniga che lo fa impazzire. La donna che chiede il rinnovo della carta d'identità, l'assessore si prodiga, chiama l'anagrafe, compiacenti vigili, tutto ok, e al che manda i messaggi, un bacio da te me lo merito, bueno bueno, risponde Zuniga, appena è un po' di tempo vieni senza pagarmi perché mi hai fatto un grande favore almeno una volta. E da qui, scrive il Fatto, corre, telefona, manda sms piccanti sempre tramite utilizzo di telefonino e sim intestati al comune di Catanzaro. Quanto prendi, si informa con un'altra prostituta, parto da 70, completo di bip, 100, con calma, il beep. Te lo faccio scoperto se ti fa piacere, l'assessore, se mi libero ti vengo a trovare, poi gli sms piccanti, mi eccito al pensare al tuo magnifico corpo e ci fermiamo qui per decenza, scrive il Fatto Quotidiano. Insomma, tutta una serie di sms a più di una prostituta, favori in cambio di sesso, questa è l'accusa. E poi questa vicenda sconfina nelle multe tolte agli amici dei vigili. C'era un sistema, secondo i magistrati, da provare ovviamente, per la quale agli amministratori compiacenti venivano fatte delle multe con dei falsi verbali che poi venivano stracciati per non dare l'idea che i cittadini diversi fossero diversi, che i cittadini normali fossero diversi da quelli non so, che avevano dei ruoli all'interno del comune. E poi venivano stracciate le multe che venivano fatte, visto che erano su verbali falsi, ai dipendenti comunali, per esempio. Ha scoperto tutto il PM Gerardo Domenigliani. Anzi, colui che nelle intercettazioni, scrive il Fatto, veniva definito con un altro nome, Stucazzo di Domenigliani. E così, insomma, a Catanzaro rischia di scoprirsi un brutto pentolone. Beh, qualcosa certo già con questi sms piccanti dell'ex assessore è finito sui giornali. A proposito sempre di spese loro, soldi nostri, Repubblica con Emilio Randaccio a pagina 12 riepiloga l'inchiesta che riguarda anche molti esponenti della Lega, la regione Lombardia, nella precedente giunta. Benzina e residenza truccata, lo stipendio così vola a 35.000 euro nella Rimborsopoli lombarda. Ci sono alcuni casi, il caso è quello utilizzato spesso dei rimborsi auto, secondo la procura, falsi. Per esempio viene coinvolto l'ex vicepresidente del Consiglio regionale Davide Boni. L'accusa per lui è di truffa, perché a partire dal 2003 fino al 2010 avrebbe fatto risultare la sua residenza a Sabbioneta in provincia di Mantova, quando in realtà viveva con la moglie presso il tribunale di Milano. Questo, secondo l'accusa, permetteva di mettere a rimborso della regione 286 km al giorno per andare e venire da Sabbioneta e quindi avere i rimborsi benzina. Ma stravince il caso di Corrado Paroli, classe 1976, o Paroli, di Lecco, carriera scolastica non molta, alla terza media, fa l'operaio alla Norda, addetto all'imbottigliamento delle acque minerali, che però nel maggio 2010 ha una svolta. Sposa infatti la figlia dell'allora capogruppo alla regione della Lega, Stefano Galli. E a quel punto, pur essendo operaio, gli viene data una consulenza da 10.000 euro al mese, 10.000 euro alla regione Lombardia, per fare che cosa? Sostanzialmente viene interrogato, dice: facevo volantinaggio a favore della Lega a Lecco. 10.000 euro al mese, che consulenza è? E addirittura dice: facevo i turni di notte pur di fare volantinaggio. E te credo, per 10.000 euro al mese anch'io, oltre allo stipendio da operaio. E poi che succede? Vabbè, è diventata famosa la sua storia anche perché il banchetto di nozze con la figlia del capogruppo, Galli, fu messo a spese della regione. Il banchetto di nozze, 6.180 euro per 101 invitati. Ma qui si scopre un giallo clamoroso. Cioè, c'è anche una rissa familiare. Perché il capogruppo Stefano Galli, appunto, ha messo a rimborso di tutti noi, questo secondo l'accusa, di tutti noi, i 6.180 euro del banchetto di nozze della figlia. Ma non ha pagato lui, manco l'ha pagato. Il genero dice: ho pagato io il banchetto, quindi, e non lo sapevo che si è preso lo scontrino e se l'è messa a rimborso. Quindi ora il genero è incazzato col suocero, perché dice: l'ho pagato io il banchetto di nozze, la mia famiglia. E nonostante ciò lui ha preso la ricevuta e l'ha messa a rimborso della regione Lombardia. Quindi non solo non l'ha pagata, e quindi non è che si è fatto rimborsare 6.180 euro, ha guadagnato proprio 6.180 euro, spese da altri, ma messe a rimborso della Regione Lombardia. Nulla sapevo, interrogato dice ora il genero, nulla sapevo del fatto che mio suocero avesse presentato in consiglio la ricevuta da me pagata, e devo dire che la cosa per certi versi mi ha anche offeso. E quindi non solo banchetto pagato a sua insaputa, cioè insaputa del genero, che in realtà ha pagato lui con la sua famiglia veramente il banchetto. Qua ogni storia diventa surreale giorno dopo giorno. Per esempio, non è surreale la notizia che ho letto a pagina 15 della Stampa, sempre per quel che riguarda le regioni, offerta shock della Val d'Aosta, assumiamo due laureati. Uno dice, vabbè, qual è lo shock? Assumiamo due laureati all'ARPA, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, devono espletare l'attività di fundraising, cioè ricerca di finanziamenti per l'ente stesso. Ecco l'offerta shock. Qual è lo stipendio per questa vicenda, per questa offerta di lavoro? 0 euro. Ma non è uno, io sembrava uno scherzo, no. Assumiamo due laureati a 0 euro. Oh, a 0 euro. L'ARPA ti dà il lavoro gratis soltanto se hai avuto un po' di esperienze formative e gestionali. Mica tutti. Entro le 12 di oggi scade il bando, affrettatevi. Ci sono due posti di lavoro a 0 euro alla Regione Val d'Aosta. Forza, affrettatevi, correte, che sono gli ultimi due posti, mi raccomando. Poi dopo inizieremo a pagare un 10 euro. Pubblicità. Alessandro Milan, al suo segnale, scatenate l'inferno. Addirittura, che film era, vabbè, il gladiatore, giusto. Mi guardano subito, mira Luca, di il gladiatore, vabbè, il gladiatore, ok, ho capito. Allora, arrivano i tagli. Il commissario per la spending review Carlo Cottarelli, ieri in audizione al Senato, l'abbiamo sentito, ha detto ci saranno nel 2014 risparmi per 5 miliardi sulla spesa pubblica in questi 8 mesi che rimangono. Su una base annua di 7 miliardi di idea, se fosse stato tutto l'anno sarebbero 7 miliardi, però ha aggiunto dipende tutto da scelte politiche, e questo è l'aspetto principale. Allora, ovviamente subito ci sono gli statali che in qualche modo tremano, perché c'è questa cifra che gira da qualche giorno. Il Libero la mette addirittura con il paragone Cottarelli fa il Reagan, via 85.000 statali. Questa cifra 85.000 ovviamente è tutto da vedere, da rivedere, ma certo ci sono già dei timori anche per i dirigenti, come racconta il Messaggero a pagina 3. Dirigenti della pubblica amministrazione, stipendi tagliati con stop a premi e indennità. Questo secondo il piano Cottarelli, riduzione dei super stipendi, contratti a tempo, rotazione degli incarichi, ruolo unico dei dirigenti. Si inizia così a delineare la strategia del governo in tema di dirigenza, il piatto forte della riforma della pubblica amministrazione. Lo stesso tema affrontato nel documento sulla revisione della spesa firmato da Carlo Cottarelli. Ad esempio, per i dirigenti apicali italiani la retribuzione lorda vale oltre 12 volte il reddito pro capite, contro valori che oscillano tra il 5 e l'8%, il 5 e l'8 per Gran Bretagna, Germania e Francia. Da questa voce l'esecutivo conta di ricavare già quest'anno circa 500 milioni di risparmi, dunque anche sui dirigenti della pubblica amministrazione. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Del Rio viene intervistato a pagina 6 del Corriere della Sera da Antonella Baccaro, racconta il piano generale, intanto dice è andata bene con la Merkel e cominciamo a dire che non siamo andati a chiedere permessi a una maestrina con la penna rossa pronta a darci voti, ci siamo confrontati con un alleato con cui dialoghiamo alla pari. L'Italia è un paese importante, ha numeri abbastanza in ordine, tranne uno, grande, che non va bene, il rapporto debito-PIL, che però è fatto di due componenti, il debito e il PIL, appunto. Noi vogliamo lavorare sul secondo, finanzieremo il taglio delle tasse prima di tutto come hanno fatto altri paesi, ristrutturando la spesa, lo faremo per 32 miliardi in 3 anni, come nessuno ha mai osato. E poi sulla questione del deficit, no? Rapporto deficit-PIL, l'obbligo di non sforare il 3%, l'Italia è al 2,6% in questo momento, vedremo se ne avremo bisogno nelle prossime settimane, nei prossimi mesi tratteremo e potremmo andare al 2,8%, ma non è detto che ce ne sia bisogno, dipende dall'intensità con cui faremo la revisione della spesa. Poi Del Rio ribadisce al Corriere sulla questione pensioni, che è un altro capitolo molto molto delicato: non intendiamo finanziare il cuneo fiscale con le pensioni, il tema non esiste nell'orizzonte di quest'anno. Potrà esserci nell'arco dell'anno una valutazione, ma solo politica, circa il contributo sulle pensioni d'oro, ma niente di più. Quindi chissà se questo tranquillizza tutta la categoria dei pensionati, la rassicurazione di Del Rio che dice non vorremmo finanziare con le pensioni il cuneo fiscale, il taglio del cuneo fiscale. A proposito di pensioni, però, c'è su tutti i giornali la beffa per gli insegnanti classe 1952, magari qualcuno di voi è all'ascolto, siete la cosiddetta quota 96, la cosiddetta quota di rientrata nel caso della legge Fornero. 4.000 sono circa questi insegnanti, tornano gli scatti di anzianità nella scuola, è incubo esodati per 4.000 insegnanti, così il titolo di Repubblica pagina 2, ma anche il Secolo XIX, insegnanti, maledetto 1952, un cavillo beffa per 4.000, andranno in pensione 7 anni dopo, questo almeno titola il Secolo XIX, con il ministro Giannini che dice cerchiamo e speriamo di risolvere la situazione. Si sono chiamati Quota 96 come un collettivo organizzato di dissidenti o un gruppo d'avanguardia artistica, ma dietro quella sigla c'è la ben più arida somma aritmetica tra gli anni di contribuzione e l'età anagrafica, sarebbe la cifra di un loro diritto. Se non ci fosse stato un errore di mezzo compiuto al Ministero del Lavoro quando a guidarlo c'era Elsa Fornero. Sono insegnanti che hanno visto fuggir via il traguardo della pensione come fosse un miraggio del deserto. Li definiscono esodati della scuola, sono finiti come altri più sfortunati lavoratori nel limbo senza pensione, senza stipendio. Nel loro girone la pena sono gli anni che hanno ancora davanti prima dell'agognato ritiro. Anni che si sono allungati di 5 o 6 quando mancavano pochi mesi. I dannati sono i nati del 1952, il maledetto 52, come scrive Ilaria Lombardo sul Secolo XIX. Quelli che hanno fatto il pieno di sfiga e si sono beccati gli effetti di tutte le riforme previdenziali dell'ultimo decennio, del passaggio dal retributivo al contributivo, tra scaloni, scalini, in giù. Questa volta il cavillo che li condanna è contenuto in un articolo del decreto legge del dicembre 2011 che fissa come requisito d'accesso alla pensione il raggiungimento della fatidica soglia 90 in due possibili forme, o 60 anni più 36 di contributi o 61 più 35. Sono rimasti ingabbiati in questa vicenda e rischiano di vedere slittare ulteriormente la loro pensione. Certo, questo non è una buona notizia per loro. Tra l'altro, sulla questione dei tagli a 5 miliardi, c'è da registrare il retrofront del ministro della difesa Roberta Pinotti, che dopo un'intervista a Sky qualche giorno fa ha detto: ora non è vero, non ho detto che taglieremo gli F-35, tanto che il Corriere del titola piano tagli a 5 miliardi, scoppia il caso F-35. Roberta Pinotti dice: sui sistemi d'arma dobbiamo ripensare, rivedere, ridurre, ma non ho parlato nello specifico di un programma come quello degli F-35. E quindi niente. Da registrare intanto la politica, la notizia forse del giorno, è arrivata alle 22 ieri in serata, ma è una nuova mazzata giudiziaria per Silvio Berlusconi. Ieri la Cassazione ha chiuso il caso, è stata confermata l'interdizione per 2 anni, quindi Silvio Berlusconi non potrà candidarsi, non potrà neppure votare, e racconta il Corriere, ha perso anche l'onorificenza di Cavaliere della Repubblica. quindi è l'ex cavaliere Berlusconi, evidentemente. La sentenza definitiva della terza sezione penale, scrive il Corriere, arrivata in tarda serata dopo una camera di consiglio di quasi 5 ore. Ora, tra l'altro, Berlusconi scrive in questo retroscena il Corriere: i cavalieri del lavoro avrebbero dovuto decidere se espellere Silvio Berlusconi dopo la condanna definitiva per frode fiscale dell'agosto scorso, la conferma dell'interdizione di ieri, ma pare che sarà lo stesso ex premier ad anticipare tutti e ad autosospendersi. Bisogna vedere, insomma, che succederà. Ex cavaliere del lavoro Silvio Berlusconi, l'amarezza del leader, così a pagina 11 del Corriere della Sera: era tutto deciso, presto tornerò in TV, era scontato come sempre su di me, già tutto deciso, non avrò mai giustizia qui, mai. Questo è lo sfogo, racconta Paola Di Caro ai suoi, anche se il giornale continua, tra l'altro c'è un editoriale molto duro oggi di Alessandro Sallusti nei confronti di Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica. Scrive Sallusti: avanti tutta, l'opera di distruzione di Berlusconi non si placa, la Corte Costituzionale ha confermato la pena accessoria di 2 anni di sospensione dei diritti civili e politici e dunque Berlusconi non potrà, oltre a essere candidato, neppure votare. Ora Napolitano, scrive Sallusti, non vuole neppure prendere in considerazione il boom del popolo del centrodestra che reclama l'agibilità politica del suo leader per le elezioni europee. Ancor più che il suo voluto immobilismo, mi preoccupa il suo astio. Così scrive Sallusti, con il giornale che continua la raccolta di firme, per la quale pare lo stesso Berlusconi abbia preso un po' le distanze sulla richiesta di grazia. Un Berlusconi affranto, ma l'idea sarebbe dietro l'angolo, racconta Repubblica con Carmelo Lo Papa a retroscena, è questo: candidare comunque una Berlusconi, la più accreditata è Barbara Berlusconi, per sfruttare il nome in lista. Berlusconi, trovarlo lì come cognome. Secondo Carmelo Lo Papa su Repubblica, Barbara lo ha confermato domenica, a differenza della sorella Marina è disponibile a compiere il sacrificio, mentre Marina Berlusconi sarebbe pronta a rallentare perché il timore è che tutto ciò proietti la sorella Barbara in una intraprendente costellazione politica e dunque un nuovo Berlusconi in politica. Staremo a vedere. Mauro Meazza, starei a vedere. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, bentornato. Grazie, grazie. Bentornato, ma sai come mai questa assenza? Atletico? Che... No, no, vabbè, insomma, sono... no, perché intanto che tu eri via, noi hai visto, abbiamo fatto novità importanti sul Sole 24 Ore. Oh. Quindi da ieri c'è questa nuova disposizione, le pagine di norme e tributi sono in fondo, sono un inserto a parte, le pagine, le notizie sull'economia reale, sull'economia italiana, l'economia, i legami con l'economia internazionale sono invece all'interno delle prime pagine, insomma c'è un sacco di roba da leggere, forse dovevi starvi anche oggi e esatto, prendere confidenza con, con la vicenda. Ti confesso, ero a casa a studiare queste novità. Studia benissimo, e ciò ti fa onore. Hai studiato anche la vicenda del registro revisori? Adesso va bene tutto, però è importante specialmente per i revisori stessi, specialmente per i giovani professionisti, giovani commercialisti che insomma si vedono bloccati dall'assenza di un decreto che si attendeva per oggi, ma non l'abbiamo ancora visto, lo spieghiamo nelle pagine di norme e tributi. Poi volevo dirti, guarda, arriva l'indennizzo da ritardo, se il pubblico ufficio non si pronuncia può darti dei soldi a ristoro, non è un risarcimento, proprio ti devono pagare fino a un massimo di 2.000 euro per scusarsi del ritardo, e anche questo lo spieghiamo in norme, enorme tributi. Hai visto, hai studiato il condominio ieri? L'edizione del condominio? No. Ah, professoressa, guardi, adesso non... Cioè, però non è che possiamo fare queste figure davanti alla nazione, abbi pazienza. Allora, effettivamente allora, è così. Se ieri ti sei perso il dizionario del condominio, sappi che martedì prossimo esce un altro dizionario dedicato alla banca, però sappi anche che oggi in edicola trovi il codice del condominio, puoi prendere quello, studiare quello, insomma è in vendita con il Sole 24 Ore. E poi naturalmente oggi fare i conti con il fisco, tu che hai sempre questo problema di quadratura dei 2 eurini. Ah ecco, no, pensavo di problemi col fisco. Compensazioni tra tasse e crediti, no, di tasse no, per carità, no. Però compensazioni tra tasse e crediti, anche questo lo puoi studiare, domani vedremo tutto. Se sei riuscito a rimetterti un un po' impari. Hai fatto dare gli appunti dal tuo amico Simone che c'era, ecco, ieri. Bravo, bravo, infatti mi passa il bigino, il famoso lo Spezia, così insomma studierò. Passare gli appunti da Simone, così studi. È il momento, momento è il tuo momento, Mauro. È il mio momento, traffico. Alessandro Milan, il sindaco dell'informazione. Il sindaco, bella il sindaco. Mi candiderò a sindaco di Radio 24. Allora, intanto ieri Matteo Renzi, che è reduce da questo tour europeo, ieri ha visto D'Alema. No, ci sono queste foto, lui, Matteo Renzi, ha regalato la maglia di Gomez, Mario Gomez, alla cancelliera tedesca. E ieri è arrivato da D'Alema che gli ha regalato la maglia di Totti, ecco, un vero campione. Vabbè, momento di scambi di maglie. E certo, vedere Matteo Renzi e Massimo D'Alema, con Matteo Renzi che presenta il libro di D'Alema sull'Europa, eccetera, ha un pochino fatto storcere, come dire, il naso a qualcuno, a dire: ma come, non erano i grandi nemici, il rottamato. Pare tutto finito, pare tutto finito. Ovviamente una riappacificazione, tutti i giornali a raccontare che i duelli del Renzi e D'Alema che furono sono un po' finiti in soffitta. Renzi, D'Alema tra battute e strategie, c'è in ballo un posto in Commissione europea. Ecco, questa è la notizia politica del giorno. Potrebbe essere la via libera della candidatura italiana alla Commissione europea da parte di Massimo D'Alema, anche se Renzi, col suo solito modo un po' da frecciatina, contraccambiato da frecciatine di D'Alema, ha detto: beh, è sbagliata comunque l'idea che la scrittura di un libro garantisca la candidatura. In ogni caso, manderemo le persone più forti che abbiamo ai livelli massimi istituzionali in Europa. Matteo Renzi, che per la verità si deve vedere dall'attacco che continua da parte di Libero. Libero è il primo giornale che ha dato questa notizia sull'affitto di un attico a Firenze, quando lui era sindaco, pagato dall'imprenditore amico di Matteo Renzi, Carrai. E Libero da giorni dice: ma come, Matteo Renzi si è fatto pagare l'affitto da un imprenditore che poi riceve appalti e incarichi, racconta ancora oggi Libero dal Comune di Firenze. Ecco l'affitto di Renzi. Oggi Libero pubblica il contratto, definito il contratto misterioso, dal direttore Maurizio Belpietro. Eccolo qui, l'abbiamo cercato per più di una settimana, finalmente lo abbiamo tra le mani. Quello che pubblichiamo dettagliatamente nelle pagine interne è il contratto del famoso appartamento di Via degli Alfani a Firenze, pieno centro storico, 500 metri da Piazza del Duomo, un quarto d'ora a piedi da Palazzo Vecchio, ed è l'alloggio in cui ha risieduto il premier Renzi quando era sindaco, dal 14 marzo 2011 fino a pochi mesi fa. Quarto piano, 5 vani, fu fissato il canone in 900 euro al mese, un anno dopo fu portato a 1200 euro, ovvero 4400 euro l'anno, da corrispondersi nel domicilio del proprietario di casa. Chi pagava per lui era Marco Carrai, l'imprenditore. E Libero dice: era opportuno? Insomma, continua questa inchiesta di Libero in più puntate. Oh, mi ha molto colpito, e passiamo alla cronaca, l'intervista che rilascia il direttore generale dei musei di Pompei, il generale dei carabinieri Nistri, mi colpisce tantissime perché non è il generale Nistri, è il Antonio Irlando, l'architetto urbanista napoletano che diciamo si occupa di Pompei. E che sentite cosa dice riguardo al furto che c'è stato di un affresco di Artemide Apollo, che è incredibile pensare che qualcuno si sia portato via un affresco. Ebbene, questo architetto dice: analizziamo le foto del reperto e io dico, paradossalmente, questi ladri hanno fatto una cosa buona, meglio il furto, perché questi ladri, paradossalmente, tra 6 mesi e un anno potranno restaurare questo affresco, che altrimenti alla prossima pioggia sarebbe crollato. Cioè, noi dobbiamo sperare, secondo l'architetto Ilardo, che qualcuno rubi il patrimonio di Pompei, perché altrimenti l'alternativa è che va distrutto per la pioggia. Vabbè, consoliamoci così. Notizia di cronaca che trovate su tutti i giornali è questa: un caso limite a Modena, i nonni invadenti a processo per stalking. Pensate, una donna di 39 anni, Patrizia, ha trascinato in tribunale, una vicenda che dura per la verità da 7 anni, i due genitori, Libero e Franca, nonni dei suoi figli, accusandoli di stalking nei confronti suoi e del marito. Al centro è la vera e propria persecuzione, con comportamenti pesantemente invasivi per il controllo sulla crescita e l'educazione della nipotina. Quindi il problema è l'educazione della nipotina. Denunciati dai genitori, fanno appostamenti, fanno pedinamenti. La replica dei nonni è: voi non siete adatti a fare i genitori. Insomma, delle liti o delle questioni che spesso nelle famiglie italiane avvengono, ma qui sono sfociate con una denuncia per stalking in tribunale. Nonni troppo apprensivi anche per Libero, una figlia li denuncia per stalking, per l'educazione del nipote. E vabbè, questo è. Siamo al momento conclusivo, però, al momento dell'articolo più inutile scovato sui giornali, e quindi al momento del premio La Carta Costa. Oggi vince il giornale che con mezza pagina, firma Oscar Grazioli, si dedica alle gag, ai travestimenti, alle prodezze di chi? Di chi? Del gatto! Amati gatti, amata mia gatta Zen, il gatto sul web, diversamente dai cani, scrive Oscar Grazioli, che è anche un apprezzatissimo veterinario, i felini spesso danno spettacolo spontaneamente. Guardate per esempio Paperissima, quanti gatti avete visto all'opera, quanti cani? Il rapporto è 10-1, più gatti che cani. Ma chi se ne frega? Ma dico io, chi se ne frega a scriverne mezza pagina sul giornale dei gatti che sono più buffi e sono quindi virali nelle loro scene sul web. Vabbè, la carta costa, e andiamo al giornale radio.